Nel panorama italiano mancava un'iniziativa che desse spazio all'argomento della sicurezza nell'utilizzo degli apparecchi elettronici e degli elettrodomestici. È una carenza importante perché la somma degli incidenti domestici di tutti i tipi è superiore addirittura a quella degli incidenti stradali, anche se le conseguenze sono probabilmente meno forti dal punto di vista, diciamo, del coinvolgimento, e all'interno di questi 4 milioni circa, a seconda delle fonti, di incidenti domestici in ambiente domestico, il 5% circa viene causato da utilizzo improprio o non corretto di apparecchi elettrici o di apparecchiature elettroniche. Dato che in ambito istituzionale e dall'industria non è venuto ancora un segnale forte in questa direzione, ovvero sia per creare attenzione verso i consumatori, abbiamo pensato nella strategia di Aeris, che è quella di valorizzare il ruolo dei retailer, di promuovere questa campagna Sicurezza OK. Aeris raccoglie oltre 2.300 punti vendita, di questi 2.000 circa saranno interessati dall'iniziativa. Prevediamo 150 milioni di contatti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se questa campagna fosse monetizzata con i normali costo contatto che vengono utilizzati per la valutazione delle campagne pubblicitarie comuni, vorrebbe dire un investimento di circa 4 milioni di euro, che per una campagna di tipo volontaristico è veramente una cifra enorme. Teniamo conto che nei nostri punti vendita nel periodo di Natale transiteranno veramente centinaia di milioni di persone. Teniamo conto che i siti delle maggiori imprese di elettronica sono quelli, i siti internet sono quelli più visitati dai consumatori, soprattutto giovani, e quindi, siccome la campagna ha anche un risvolto internetiano, certamente avrà un audience molto molto diffusa.